Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura oggi ci occupiamo della difficile condizione nella quale versano gli autotrasportatori che operano nell'ambito delle attività dell'Ilva di Taranto, una categoria sulla quale la crisi del complesso siderurgico sta infliggendo colpi durissimi. Nel corso degli ultimi anni molte imprese sono già state costrette a sospendere l'attività e per molte altre il rischio di fare la stessa fine è altissimo. L'ultima botta è arrivata dal Tribunale di Milano, delegato all'amministrazione straordinaria di Ilva, che non ha riconosciuto agli autotrasportatori la prededuzione dei loro crediti riferiti al periodo antecedente l'amministrazione straordinaria. In ballo c'è una cifra che complessivamente ammonta a 25 milioni. Dopo la decisione del giudice di Milano, i rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori si sono mobilitati minacciando azioni di protesta a partire dalla sospensione dei servizi. Al momento ogni iniziativa è stata congelata in attesa del via libera ad un emendamento che confermi il diritto alla prededuzione dei crediti degli autotrasportatori. Al nostro microfono Giacinto Fallone, presidente provinciale di Casa Artigiani, ricostruisce la vicenda. I nostri crediti sono stati congelati con l'amministrazione straordinaria dichiarata nel gennaio 2015. Successivamente, nei giorni seguenti, facemmo uno sciopero di 46 giorni in cui ci fu prospettato da parte dei commissari di avere i nostri crediti in tre tranche, una a breve stretto giro di posta, che avemmo dopo circa un mese, e il resto entro l'anno. È stato fumo negli occhi, non è andata a buon fine, gli impegni non sono stati rispettati ed è andata avanti la procedura di ammissione al fallimento, diciamo, all'amministrazione straordinaria della vecchia Ilva. Il giudice del Tribunale di Milano ha calendarizzato le varie udienze e la nostra era prevista per marzo. Nel frattempo il governo Renzi aveva fatto 11 decreti in cui aveva dichiarato di averci dato la prededucibilità dei nostri crediti. Purtroppo il giudice che ha rinviato queste udienze fino a giungere all'ultima, in cui ha dichiarato che, siccome la legge Marzano non prevede la prededucibilità e che i decreti non prevedevano la prededucibilità ma era solo una circolare ministeriale, ha deciso di applicare la legge alla lettera e di dichiararci chirografari. Ciò significa che i nostri crediti sono diventati carta straccia, automaticamente portandoli in perdita, perché ormai diventano delle perdite. I nostri bilanci valgono zero, le nostre aziende valgono zero, dobbiamo prendere tutti i libri e portarli in tribunale. Ma quante sono le aziende che rischiano il fallimento? Sentiamo ancora Fallone. Siamo circa 400. Che non sono solo di Taranto, perché Taranto ha un bacino d'utenza molto vasto che arriva a Campania, Calabria, Basilicata, tutta la Puglia. I tarantini sono quelli che soffrono di più perché non hanno alternative, tra parentesi, perché nel frattempo con l'amministrazione di questa società il lavoro è depauperato perché la produzione è scarsa, vengono utilizzate le navi che sono di proprietà dell'Ilva per trasportare quello che facevamo noi prima, quindi abbiamo lavoro col contagocce, pagamenti del corrente che erano c'era stato un impegno all'inizio mantenuto di 30 giorni, siamo arrivati a 100-110, quindi abbiamo anche paura che al 31 dicembre con il fitto dell'azienda alla nuova cordata, di perdere anche quelli. No alle nuove norme sul cabotaggio stradale proposte dalla Commissione europea, che di fatto porterebbero verso una sostanziale liberalizzazione dei servizi. Lo hanno ribadito i rappresentanti delle associazioni dell'autotrasporto nell'incontro al Ministero dei giorni scorsi e in vista della discussione al Parlamento europeo del pacchetto mobilità sono state articolate proposte nel segno di un mercato più equo che garantisca pari opportunità tra i vettori dei vari paesi. Alla Commissione lavori pubblici del Senato nel frattempo si è svolta l'audizione di una delegazione di Unatras, è emerso che a breve potrebbe essere presentato un emendamento che permetta di sanzionare la violazione del divieto di effettuare il riposo settimanale nella cabina dei mezzi pesanti, norme che all'estero, per esempio in Francia, sono in vigore già da tempo. Voltiamo pagina, sicurezza stradale. L'Unione Europea ha fissato un obiettivo preciso, quanto sempre più difficile da raggiungere, dimezzare le vittime della strada entro il 2020 rispetto a quante erano state nel 2010. E la sensazione che si tratti di un traguardo sempre più lontano è purtroppo confermata dagli ultimi dati sugli incidenti con esito mortale, dati che indicano un'inversione della tendenza virtuosa riscontrata negli ultimi 15 anni, a parte la parentesi del 2015. A fornirli è stato direttamente il capo della polizia Franco Gabrielli nel corso di un convegno dedicato alla legge sull'omicidio stradale organizzato in occasione dei 70 anni della polizia stradale. Nei primi sei mesi del 2017, veniamo appunto ai dati, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è calato il numero complessivo degli incidenti, meno 3,2%, ma non quello relativo agli episodi con esito mortale, che invece sono aumentati del 4,6% con 800 vittime. E si tratta di un dato parziale perché non tiene conto degli incidenti rilevati dalle polizie locali, quindi avvenuti prevalentemente nei centri urbani, dove, stando alle statistiche degli ultimi anni, il calo degli incidenti mortali è stato più contenuto rispetto alle strade extraurbane e in particolare alle autostrade. Giuseppe Bisogno è il direttore del servizio di polizia stradale. Questo significa che le cause che determinano gli incidenti, e noi diciamo innanzitutto la distrazione, sono ancora prevalenti, non siamo riusciti ancora ad arginarle del tutto e dobbiamo quindi intensificare l'attività di controllo verso appunto le cause che determinano gli incidenti e soprattutto distrazione e condizione psicofisica dei conducenti. Questa è la prima osservazione. E quando si parla di distrazione al volante, nella maggior parte dei casi si parla dell'uso irresponsabile di cellulari e smartphone, con i quali oggi si fa di tutto, anche quando l'attenzione dovrebbe essere concentrata esclusivamente sulla strada. Per contrastare queste pratiche, nel testo base del nuovo codice della strada elaborato dalla Commissione Trasporti della Camera, è stato inserito un articolo ad hoc che inasprisce le sanzioni. In particolare prevede il raddoppio dei punti decurtati e anche del periodo di sospensione della patente. Ancora il direttore del servizio di polizia stradale, Giuseppe Bisogno. La modifica dal nostro punto di vista non sarebbe né complessa da realizzare ed è estremamente chiara. Noi vorremmo che l'attuale articolo 173 del codice della strada prevedesse il ritiro immediato della patente di guida per colui che sta utilizzando alla guida il telefonino o lo smartphone. Oggi è previsto soltanto la decurtazione di punti e purtroppo non si sta rivelando efficace. La legge sull'omicidio stradale è in vigore dalla fine di marzo del 2016. Nei primi 15 mesi in forza di questa legge sono state arrestate 32 persone, denunciati sono stati 479, ma stando ai dati che vi dicevo prima, questa legge non ha sortito un effetto deterrente, i morti sulle strade sono tornati ad aumentare. Bisogna però interrogarsi bene e fare chiarezza su che cosa ci si aspettava dalla legge. Noi sinceramente non abbiamo mai ritenuto che la legge sull'omicidio stradale da sola potesse fare da deterrente per la incidentalità, soprattutto quella grave. Questa è una legge che è stata soprattutto il risultato di un'esigenza di giustizia. L'autostrada A4, conosciuta come la Serenissima, taglia in due la pianura padana e collega Torino a Trieste. È una delle direttrici più trafficate d'Europa perché su questa autostrada convergono i flussi turistici e i mezzi pesanti in viaggio lungo una rotta strategica per le merci. Sulla Serenissima i flussi di traffico sono praticamente tornati ai livelli antecrisi. Secondo dati diffusi dalla direzione della A4, di particolare rilievo è la crescita del traffico pesante. Nei primi cinque mesi di quest'anno sono transitati 267.000 TIR in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Siamo a luglio, siamo entrati nella fase dell'anno a più alto rischio di ingorghi e si è appena concluso un weekend da bollino rosso, quindi allo scopo di gestire questi alti flussi di traffico è scattata una serie di iniziative concertate da Autovie Venete e Polizia Stradale. In particolare si punta sulla comunicazione con notizie in tempo reale anche sui pannelli delle autostrade confinanti. Gli autotrasportatori hanno chiesto la possibilità, in caso di grande traffico, di filtrare, diciamo così, diradare i transiti dei mezzi pesanti provenienti dall'estero. Sentiamo il presidente di Autovie Venete, Maurizio Castagna. Questo riguarda il traffico che proviene dall'estero, in particolare dalla Slovenia e dall'Austria, in determinati periodi di tempo che sono ben individuati, e anche dal porto di Trieste nei momenti di arrivo delle navi traghetto che provengono prevalentemente dalla Turchia. Quindi noi abbiamo già preso contatti con le concessionarie slovene e con il porto di Trieste, con gli interporti, in maniera tale da organizzare e vedere assieme alla polizia stradale e soprattutto col coordinamento delle prefetture come sia possibile organizzare anche questa limitazione di ingressi in casi particolari. Con hashtag autotrasporti mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Ora il GR da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.